Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Alle 17:09 minuti inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia e allora subito i temi di questa giornata economico-finanziaria. Chiaramente le attese per quella che sarà la squadra di governo di Mario Monti, ammesso poi non concesso, va ancora detto che passi. I dubbi in questo momento sono soprattutto sui veti arrivati alla presenza di ministri politici e quindi non solo tecnici. Veto espresso in maniera molto chiara ieri dal segretario del PDL Angelino Alfano, però ancora sui nomi io non lo chiamerei neanche Toto Ministro, perché non abbiamo neanche una faremo il punto più avanti, ma non c'è nemmeno una parvenza di definizione dell'identikit complessivo della squadra di governo. Come vanno gli spread? E vedo che qua già si stanno scatenando al 349-238-6666 alcuni ascoltatori. Allora, diciamola tutta, questa mattina, come ampiamente atteso, lo spread si era ridotto a 450 punti, che resta, non finirò mai di dirlo, un livello altissimo, non accettabile e soprattutto non sostenibile. Ricordo che ad agosto, quando la crisi sembrava entrata nella sua parte più virulenta, poi ci siamo accorti che poteva essere anche peggio, lo spread arrivò a 412 e tutti ci stracciavamo le vesti. Adesso siamo a 450 e c'è chi dice: ah, lo spread scende. Sì, è ancora altissimo. Ma non basta, perché poi il Tesoro fa un'asta di BTP a 5 anni, 3 miliardi, non è un'asta molto grande. Però il tasso per trovare dei sottoscrittori del nostro debito, il tasso offerto è stato del 6,29%. Stiamo parlando di un punto percentuale quasi in più rispetto all'asta di ottobre. A ottobre offrimmo, per trovare dei compratori del nostro debito, dovemmo offrire il 5,32% di rendimento, ieri, oggi il 6,30%. Un punto percentuale è chiaro che significa ogni 100 miliardi un miliardo, adesso questi erano solo 3 miliardi di asta, però ecco perché si dice: se tu dovessi rifinanziare tutto il debito in scadenza nel 2012 con questi livelli di tasso, beh, pagheresti all'incirca 3 miliardi in più che non con uno spread più accettabile e un rendimento intorno al 4% delle obbligazioni. Poi però è ripartito lo spread, dopo essere arrivato a 450 è ripartito, è andato oltre 470, poi a 480. La Banca Centrale Europea si è messa a comprare BTP, BTP italiani, insomma, e adesso è sui 490 punti. Due le notizie su questo. Beh, da un lato il fatto che, ripeto, gli operatori ancora non hanno capito quanta forza avrà questo governo, quali misure farà, per cui dopo comunque averlo premiato con 100 punti in meno rispetto a mercoledì, siamo rimasti lì, non è più sceso. Come dire, il 100 punti li abbiamo dati perché avete deciso di fare un governo tecnico, però finché non vediamo le misure non scendo ulteriormente. E poi c'è anche Christian Clausen, presidente della European Banking Federation, ossia l'istituto che rappresenta le maggiori associazioni bancarie europee, che oggi se ne è uscito con una profezia veramente illuminante, perché dice Clausen: attenzione, state alla larga il più possibile dalle obbligazioni italiane e in generale da quegli asset contaminati dalla crisi europea dei debiti sovrani. Le banche devono continuare a vendere obbligazioni italiane, perché solo vendendole si rischia di evitare il contagio con gli strumenti finanziari del vecchio continente. Ma dove stava Clausen fino a ieri, quando le banche tedesche e francesi compravano obbligazioni greche, spagnole e italiane? Clausen si becca il gufo risorto. Allora, vedo che ancora scrivono molti su Mario Monti, figlio prima di tutto di Goldman Sachs, di Bilderberg, del complotto. Torneremo su questo. E ancora vedo altri che scrivono sostanzialmente attenzione, praticamente il mercato non crede nell'Italia. Sì, cioè non crede nell'Italia perché non è che nel frattempo Mario Monti abbia avuto il tempo e il modo di fare qualcosa. Cioè, noi siamo alla situazione della settimana scorsa, ripeto, abbiamo recuperato 100 punti di spread per quando sono arrivate l'annuncio delle dimissioni di Berlusconi e di un governo tecnico, ma poi ci siamo fermati a lì. Non è che lo spread sia continuato a scendere, è fermo lì. Il segnale è molto chiaro: finché non capiamo le misure che prenderete sotto i 450-440 non vi portiamo. Piace o non piace? Angela Merkel dice che questo per l'Europa è il momento più duro dalla seconda guerra mondiale, detto da un tedesco. L'Europa sta vivendo uno dei momenti più difficili dalla fine della seconda guerra mondiale, forse il più difficile. Servono regole più stringenti per la finanza, e anche su questo siamo d'accordo, le facessero però. E invece poi Olli Rehn, il commissario europeo agli affari economico monetari, ha detto attenzione, anche con il nuovo governo la nostra diagnosi non cambia, non è che cambiamo valutazione sull'economia italiana perché c'è Monti. Vediamo cosa saprete fare, bisogna che Monti agisca in maniera rapida sui conti, sulle riforme, come ha precisato in maniera molto chiara, continua Olli Rehn, fin da subito nel suo discorso di ieri. Le misure che Monti vorrebbe portare subito in Consiglio dei Ministri sarebbero una patrimoniale, la reintroduzione dell'ICI, l'anticipo rispetto al 2026 dell'aumento dell'età pensionabile a 67 anni. C'è un passaggio dell'intervento di Mario Monti di ieri, che magari vi faccio anche riascoltare, in cui diceva maggiore equità sociale. Equità sociale a casa mia vuol dire due cose sostanzialmente. Vuol dire riforma delle pensioni e tassare di meno le persone fisiche e di più le proprietà, le cose, quindi di fatto anche le patrimoniali. Poi è arrivato anche devo dire più di un osservatore, oltre a Olli Rehn, anche Bill Gross, fondatore del maggior fondo comune di investimento che si chiama PIMCO, ha detto l'Italia resta in difficoltà anche con la formazione di un nuovo governo che metta in atto le misure di austerity. L'Italia e i paesi europei hanno un problema di debito troppo elevato e di crescita troppo bassa. Ripeto di questo, grazie, ma ce ne eravamo accorti anche noi. Decine e decine di messaggi. Io continuo a ritenere che in questo momento, se ci sia un percorso per la credibilità, è il percorso che abbiamo iniziato. Dopodiché sono d'accordissimo con tutti quelli che dicono ha visto che non basta nominare Monti, ma chi ha mai detto che bastasse nominare Monti? Fosse così lo facevamo subito. Lo spread, proprio perché è una cosa seria, non si muove solo sugli annunci, e l'abbiamo visto col governo Berlusconi, si muove sui fatti. Poi magari vi racconto anche, perché c'è una tabella bellissima su come era lo spread italiano, diciamo, dal 1994 ad oggi, e si scopre che anche con alcuni governi Berlusconi dal 2001 al 2005 e Berlusconi 3 dal 2005 al 2006, lo spread era bassissimo. Non è che ce l'abbia il mercato o il rischio paese venga percepito solo se c'è Berlusconi. Nel 2001, dal 2001 al 2006, lo spread oscillò tra 47 punti a 83. Durante il governo D'Alema era di 30 punti, di 27 punti, cioè la differenza tra noi e la Germania era dello 0,2 come rendimento. 48 punti con il secondo governo D'Alema o il secondo governo D'Amato. Addirittura col primo governo D'Alema andò in negativo, meno 4, vuol dire che le nostre obbligazioni rendevano meno di quelle tedesche, eravamo percepiti addirittura più sicuri. Ma in generale diciamo che dal 1997 al 2007, per 10 anni, lo spread italiano, ecco perché nessuno se ne è mai occupato, nemmeno noi, e nessuno conosceva il termine, oscillò tra 40 e 50 punti, cioè niente, capito? Fino a 13 punti, 23 punti, niente. Poi, nel 2009 inizia a salire, ma resta ancora accettabile, 83 punti. Nel 2010 resta ancora accettabile a 170 punti e resta intorno ai 170-200 punti fino al giugno del 2011, metà giugno 2011. Lì schizza e poi arriva fino ai 557 punti del 7 novembre. Emma Marcegaglia che chiede adesso di abbassare i toni e fare le riforme. Domani daremo a Monti la nostra visione, ci sono infatti le consultazioni del Presidente del Consiglio incaricato, la segretaria della CGIL Susanna Camusso che dice serve una patrimoniale sulle grandi ricchezze, parleremo più avanti di Unicredit. Il titolo va male in borsa, meno 5,76, devo dire che il peggiore però è Campari, meno 7%, non sono piaciuti i conti di Campari al mercato. Ma Unicredit va male, via libera all'aumento di capitale da 7 miliardi e mezzo, nessun dividendo nel 2011, l'obiettivo praticamente ha svalutato con perdite straordinarie per 10 miliardi e 600 milioni di euro alla fine, sarebbe stata la perdita di 470 milioni senza queste svalutazioni, quindi 10 miliardi di svalutazione, ne parleremo a mercati chiusi. Termini Imerese, stop dal 23 novembre, notizia anche qui ampiamente attesa, devo dire che la Fiat ha sempre fatto sapere che avrebbe chiuso entro fine 2011 lo stabilimento di Termini Imerese. Comunque dal 23 novembre il rientro in fabbrica, perché sono in cassa integrazione molti operai, è previsto per domani, poi la produzione andrà avanti per altri 4 giorni fino a mercoledì. Poi lo stop alle linee per l'assemblaggio della Lancia Y, opera in cassa integrazione fino al 31 dicembre. Devo dire anche un'altra cosa, che purtroppo nel piano industriale di Unicredit oggi si è saputo che vi saranno 5.200 esuberi in Italia entro il 2015, spesso sono prepensionamenti con la cassa dei bancari, ma comunque sempre esuberi sono. 349-238-6666 per i vostri sms, dicevamo. E allora partiamo, volete sapere come abbiamo battezzato Mario Monti? Sì, l'abbiamo battezzato come un film di Tarantino, Pulp Fiction, Mr. Wolf, quello che risolve i problemi, Mario Monti Wolf. Sono il signor Wolf, risolvo problemi. Intanto leggo assieme a voi un'agenzia che è quella dell'ex ministro Altero Matteoli, che dice il governo Monti può nascere solo se ci sono le garanzie chieste dall'ufficio di presidenza del PDL, quindi no a ministri di carattere politico, solo tecnici, altrimenti il ricorso alle urne sarebbe l'unica opzione possibile. In realtà noi abbiamo detto che Mario Monti potrebbe essere Mr. Wolf, ma c'è chi ritiene che il vero Mr. Wolf, l'uomo che ci ha salvato, sia il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. E allora saluto e ringrazio per averci raggiunto in collegamento Oscar Farinetti, già nostro ospite altre volte, fondatore e presidente di Italy, una catena di punti vendita di cose buonissime da mangiare, di produzioni italiane, agroalimentare, quindi Torino, Milano, Genova, Pinerolo, Asti, Bologna, Tokyo e New York, questa cosa enorme. Farinetti, buonasera. Buonasera. Insomma, quanto ha speso per fare questa paginata, caro presidente Napolitano? È un periodo in cui gli imprenditori comprano tante pagine di giornali, va bene. In teoria rispetto al budget non ho speso nulla, perché ho sostituito delle pagine promozionali che parlavano di cibo con una pagina che apparentemente parlava di politica. La posso leggere? Questo è il weekend più importante per la pubblicità è uscita ieri. Questo è il weekend più importante per l'Italia degli ultimi 60 anni, c'è una bandiera di italiani in mezzo. Caro presidente Napolitano, la vogliamo ringraziare per tutto quello che sta facendo per il nostro paese. In un momento così delicato siamo convinti come lei che l'Italia sia un grande paese in grado di superare le attuali difficoltà. Italy le fa un grande in bocca al lupo per le importanti decisioni che sta prendendo per il meritato bene della nostra Italia. Viva l'Italia, ma perché Farinetti? Perché il vero Mr. Wolf è stato lui. Adesso parliamoci chiaro, quest'uomo di 83 anni che prende l'Italia un po' per i capelli mentre stava sprofondando e a forza di ore e ore di lavoro, a forza di chiarezza di idee, di linguaggio moderato, riesce a mettere i politici da parte. Allora adesso io sto facendo un ragionamento di noi cittadini comuni mortali, che tutti quanti ultimamente, un po' esasperati da questa litigiosità dei politici, abbiamo tutti pensato se si facessero da parte, ma abbiamo immaginato che questa cosa era impossibile. Ebbene, lui ci è riuscito. Pensate che roba strana. L'Italia è in mano dei tecnici in un momento di crisi forte, e forse c'è bisogno che lo sia, e i politici un attimo da parte, anche se ho sentito un attimo fa da lei che Matteoli dice le sue, l'altro dice le sue. Tuttavia abbiamo un Presidente del Consiglio nuovo, questo gesto di discontinuità di cui avevamo bisogno, gliene avevo parlato già nella scorsa volta che mi ero collegato, è avvenuto, i mercati come vediamo ne hanno tenuto conto, io credo che voi che siete degli specialisti sapete bene che cosa sarebbe successo oggi se non fosse successo nulla. No? A 700 si andava. Un macello, era veramente un macello. Bravo Napolitano, e chi ha costruito questa cosa è lui, quindi non potevo che ringraziarlo, l'ho fatto come cittadino, alla fine invece di fare pubblicità alle mele, alle pere o ai pomodori ho ringraziato Napolitano, alla fine poi guardi, abbiamo fatto anche un ottimo weekend commercialmente. Ecco, quindi lei che è un gran volpone Farinetti, però nel senso che non è che ha fatto solo, giustamente ha deciso di fare, invece che mettere una pubblicità classica ha ringraziato Napolitano, ma ben venga, quello che su cui però vorrei che riflettesse è questo, cioè voi avete fatto una cosa molto bella quest'estate, l'abbiamo raccontata, sette mosse per l'Italia, riforma della politica, riduzione della spesa, cioè varie idee suggerite da vari cittadini, non da politici. Si dice spesso che in questo paese non c'è spazio per i giovani non ce la fanno, non sanno avanzare, però insomma qua c'è, secondo il suo ragionamento, questo paese l'ha salvato un ottantenne. L'ha salvato un ottantenne, è vero. In questo paese non è che non ci sia spazio, questo è un paese ingessato sotto profilo politico. Esiste una dicotomia enorme tra, secondo me, una grandissima creatività d'impresa, una ottima voglia di lavorare da parte delle persone e anche una classe di giovani, secondo me, all'altezza, ma siamo veramente ingessati dalla classe politica. E loro si sono anche costruiti attraverso il porcellum la sicurezza di stare nelle proprie posizioni per anni. Adesso il prossimo obiettivo fondamentale che raccomando a Monti e raccomando ai politici con un po' di senno è di fare la riforma elettorale, fare in maniera che i politici siano di meno, facciano più politica e che ogni 10-15 anni cambino, siano persone diverse. Secondo me succederà anche questo. Sono tornato molto ottimista ultimamente. Oh, lei di lavoro fa l'imprenditore, eh? Attenzione, certo. Lo dico a chi scrive, non fa l'opinionista, assume persone, crea ricchezza, come tutti gli imprenditori. Però è anche giusto che diamo noi le nostre opinioni. Cioè, ci mancherebbe. Io non mi candido, né mi candiderò mai, tuttavia ho piacere di dire le mie idee con grande moderazione, mai contro, sempre però con grande moderazione chiedo la possibilità di dire le mie opinioni. E ci mancherebbe, siamo in democrazia, tutti hanno diritto. Farinetti, mi dica una cosa, però adesso sta montando, continua, adesso non so se ho io un pubblico un po' così, Ma questa polemica su Monti, che deve ancora iniziare a lavorare, diciamo, cioè sta cercando di trovare una squadra. Monti è in sostanza, la tesi è questa, è l'uomo di Goldman Sachs, di Bilderberg, della finanza mondiale, ebraica, ma non solo, come Mario Draghi viene da Goldman Sachs, e quindi in sostanza la finanza mondiale ha ottenuto l'usurpazione del governo legittimamente eletto e ci ha piazzato un suo uomo. Siamo, diciamo, nelle mani della finanza mondiale. Posso dire che secondo me è una grande cavolata, inventata da chi vuole sempre trovare gli aspetti negativi in ogni cosa. Monti è una persona molto per bene e di una lucidità enorme, l'ha dimostrato nei fondi che ha scritto, credo che lei, come anche i suoi ascoltatori, abbiano letto i vari fondi su Corriere della Sera che ha scritto rispetto all'euro, eccetera. Sta attraversando un momento di lucidità enorme. Abbiamo bisogno di un uomo così. State tranquilli, che sarà un uomo che farà gli interessi di tutti. Tanto guardate, quando si è in una situazione di emergenza come lo siamo ora, cioè in una situazione da disperati, è chiaro che qualcuno deve pagare. Glielo dico da persona che spero che ci sia la patrimoniale di pagare tanto, mi spiace perché ho un discreto patrimonio e lo pagherò volentieri, ma lo pago volentieri a un governo presieduto da Monti, hai capito? Molto volentieri, perché voglio bene a questo paese e lo faccio molto volentieri, ma ho bisogno che quei quattrini vadano in mano, abbiamo tutti bisogno che quei quattrini vadano, siano gestiti da persone a posto, da persone semplici, da persone normali. Monti è una persona normale. Io prego tutti i suoi ascoltatori e altri di stare tranquilli, di dare fiducia, di dare una mano. Adesso è arrivato il momento che ognuno di noi deve fare il suo mestiere e deve impegnarsi nel suo mestiere e fare la cosa principale che serve al mercato del lavoro, che sa qual è? Lavorare. Dobbiamo sì. Tutti lavorare con grande e crearlo anche il lavoro. Adesso arriviamo a questo, Ferenti, perché mi interessa capire una cosa, però vi faccio sentire la risposta che abbiamo immaginato in questi giorni per chi dice: ecco, vedete, adesso il complotto pluto-giudaico-massonico è riuscito nel suo intento, hanno spodestato la democrazia, come se non ce lo fossimo creati da solo lo spread a 557, come se non fosse stato un problema politico non avere più la maggioranza in Parlamento, 308 deputati non bastano, la maggioranza di 316. Allora ci è venuto in mente un mitico John Belushi. Ero rimasto senza benzina, avevo una gomma a terra, non avevo i soldi per prendere il taxi, la tintoria non mi aveva portato il Tide, c'era il funerale di mia madre, era crollata la casa, c'è stato un terremoto, una tremenda inondazione, le cavallette, non è stata colpa mia, lo giuro su Dio! Non è mai colpa nostra, dicono alcuni Farinetti. Allora iniziamo ad assumerci le nostre responsabilità, perché forse un appello andrebbe fatto anche a questo, cioè un paese, per carità, può avere anche Saturno contro, può avere anche le cose che dicono sfortuna, però a un certo momento se le crea, certe situazioni. La Spagna per esempio è riuscita a rifugiarsi in alcune riforme, in alcuni annunci. Noi ce l'abbiamo messa tutta, quando un ministro dell'economia, lo dicevamo anche ieri, tace per 3 mesi e fa sapere a destra manca che non è d'accordo su nulla con il Presidente del Consiglio, è chiaro che i mercati ti bastonano. Però possiamo anche, prima di arrivare al mercato del lavoro, fare un appello, Farinetti, su questo vizio un po' italiano che quando perdiamo, quando c'è un problema, non è mai colpa nostra? Ma che bravi che siete bravissimi, avete ragione, avete centrato il tema. La stragrande maggioranza dà sempre colpa allo scenario, è sempre colpa del resto, eh? Quando decrementano le vendite è colpa del fatto che fa troppo freddo, fa troppo caldo, oppure c'è la crisi, oppure sono andati in vacanza, c'è sempre un tema esterno a noi, invece dobbiamo incominciare a chiederci dove abbiamo sbagliato noi. Noi cittadini italiani abbiamo sbagliato molto e dobbiamo avere più senso civico e quindi dobbiamo correggerci e questo si può fare. E se avremo questa cosa, questa frase fatta, degli uomini migliori al comando, io credo molto nella polis, credo molto nell'arte del governo, dobbiamo mandare i migliori, ritengo che Monti sia tra i migliori e sono sicuro che troverà una squadra di migliori che ci aiuteranno a superare questa fase. Vedremo. Ma dobbiamo aiutarlo, ognuno di noi, pensando dove può migliorare la propria attività. Vabbè, non sono guardi, d'accordissimo. Noi resteremo a guardare e osservare e analizzare e eventualmente criticare il governo Monti, come abbiamo fatto col governo Berlusconi, col governo Prodi, col governo Berlusconi precedente. Sempre qua stiamo. C'è il metro, la pubblicità. Poi vorrei sapere un'ultima cosa da lei che riguarda il mercato del lavoro, perché anche lei tempo fa lamentò, cioè, qui c'è un problema di disoccupazione giovanile, però abbiamo dei dati che non siamo riusciti a commentare in questi giorni perché c'era la crisi di governo, in cui mancano i panificatori, mancano i macellai, mancano... Allora è un peso un po' strano anche questo. Possiamo fare anche un appello generale dopo il metro e la pubblicità. 349-238-6666 per i vostri sms, anche un commento sulla patrimoniale vi farò, va bene, perché c'è qualcuno che ne scrive malissimo, evidentemente ha più patrimonio con reddito da lavoro, cioè, mi sembra di capire. Ne parliamo dopo il meteo. ...17.41 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Oscar Farinetti, prima di arrivare alla borsa, che nel frattempo ha chiuso meno 2%, arriveremo anche agli spread, Parigi meno 1,30%, molto male Unicredito meno 6,20% e Campari meno 7,50%, Unicredito con l'aumento di capitale, ne parliamo tra un attimo. E il mercato del lavoro, possiamo anche spiegare, visto che lei ha tanti appelli, tante cose, ha detto perché abbiamo una disoccupazione che è ai massimi da 10 anni, ma molti di suoi colleghi lamentano di non trovare persone. È una balla la seconda o c'è qualcosa che non va? Le rispondo immediatamente, ma mi deve dare 12 secondi per dirle che secondo me anche voi giornalisti dovete fare la vostra parte, non solo come noi, no? E non solo come stare no a guardare. Ma dovete pensare che siete responsabili di quella cosa importantissima che è la formazione dell'opinione pubblica. E quindi dovete sempre sentire le varie campane ed essere moderati anche voi e un po' meno pettegoli. Non mi riferisco a lei, Barisone, mi riferisco a tanti che lo sono. Quindi tutti dobbiamo fare la nostra parte, compreso voi giornalisti che rivestite una funzione fondamentale del mercato e dell'umanità. Per quanto riguarda la cosa che mi ha detto, è vero, si fa fatica a trovare personale nei lavori cosiddetti umili, che invece non sono umili ma sono di grande specializzazione: salumai, macellai, panettieri. Ecco, per esempio, tre cose che magari un giovane italiano che magari si è laureato, quasi laureato, e non trova lavoro. E lo possiamo anche comprendere, perché ha studiato scienze della comunicazione e poi non riesce a comunicare perché sono già in troppi che comunicano e mancano macellai e non vuole fare il macellaio. Noi stiamo cercando di convincere un sacco di giovani, anche laureati, a riprendere dai mestieri. Non bisogna vergognarsi di fare i mestieri specialistici, nel mio caso nel campo del cibo, e perché tanto sta per finire che quelli che fanno i mestieri guadagnano un sacco di soldi di più di chi fa il marketing o la comunicazione, perché è la vecchia legge fisica della domanda e dell'offerta. Vabbè, c'è sempre meno gente che vuole fare questi mestieri. Ne stiamo trovando, stiamo incominciando a lavorare. Ecco, adesso questo volevo sapere. Stiamo aprendo Roma e apriremo tra marzo e aprile il più grande Italy del mondo a Roma, 16.000 metri quadri, quindi una roba che darà lavoro a circa 500 persone, sono 20 ristoranti interni, 8.000 metri quadri di mercato, 40 aree didattiche, sarà una roba straordinaria, è un Ityland più che un Italy. Stiamo incominciando a convincere un sacco di giovani che cercano lavoro a fare la mozzarella, a fare gli sfoglini o le sfogline, quindi le paste fresche fatte a mano con dei maestri che gli insegnano a farle, a fare i macellai, a fare i salumai. È vero, si fa fatica a trovare giovani che abbiano voglia di fare questi mestieri, è comprensibile, ma è compito di noi imprenditori aiutarli a spiegargli che forse conviene imparare. Chi impara un mestiere oggi ha un grande futuro. Grazie Farinetti, piace o non piace, lei è sempre molto chiaro. Una cosa la devo dire sulla patrimoniale, poi passiamo invece al cosiddetto Toto Ministri. Attenzione, siamo d'accordo, perché lei si è dichiarato assolutamente a favore della patrimoniale. Attenzione, la patrimoniale significa spostare la tassazione dal reddito da lavoro alle cose. Allora, siccome questo è un paese che ha 220 miliardi di imponibile evaso, che ha dichiarazione dei redditi ridicole, le raccontiamo sempre, forse tassare un po' meno chi lavora e tassare un po' di più chi i beni, forse si chiama redistribuzione, un minimo di equità sociale. Grazie a Oscar Farinetti, abbiamo preparato i nostri tecnici non sanno cosa fare in questo periodo, non ne possono più dello spread e si sono inventati questo stacchetto musicale per il nostro spread, che oggi non è che proprio sia calato. prima o poi ripartirò. E salirò, salirò, salirò, salirò fra le rose di questo giardino. E salirò, salirò, fino a quando sarò solamente un ricordo lontano. Salirò, no, scenderò, salirò, scenderò, mi raccomando, ragazzi. Lina Parmelini, il Sole 24 Ore, buonasera Lina. Lina? Ciao a tutti. Pronto, eccoci. Mi senti? Sì, sì, no, che c'è sotto salirò ormai qua. Allora, dopo il... Tu, voglio dire, non è problema di lavoro, però hai sentito Farinetti, 500 assunzioni a Roma. Dillo, sì, dillo alle persone che... si può fare anche altro nella vita, oltre che i giornalisti, anzi meglio. Sì, le no, ma il problema di oggi invece è riuscire a convincere i politici a fare i ministri, perché tanto per così... pensavo i panettieri, pensavo i panettieri, dico no, questo potrebbe essere un attacco, no, no, un attacco interessante. No, no, tanto per andare subito al punto della tua domanda sul toto ministri. Oggi in realtà c'è un grande nodo politico con cui Mario Monti si sta così cimentando, ed è il no sia del PD che del PDL a entrare nella squadra di governo, nel senso che il premier incaricato vorrebbe avere nella sua squadra anche politici, in particolare dei due più grandi partiti che lo dovranno sostenere, quindi PD e PDL, ma c'è un rifiuto a entrare in squadra, quindi una volontà ancora dei politici di tenere le distanze con il governo. E questo è il punto, adesso torniamo, esatto, a essere seri, anche sullo spread, perché da stamattina a stasera si è rimosso verso l'alto da 450 punti a 495. Perché? Perché i tempi si allungano. Dopo il traffico ci racconti anche cosa c'è dietro questa resistenza. Si può intuire, ma meglio dirla tutta. 349-238-6666 per i vostri sms. Traffico. 17:49 minuti, di nuovo in diretta. Allora, Lina Palmerini, al di là del toto ministri, che mi sembra prematuro, poi è più interessante la tua analisi, quella che avevi iniziato sul PDL, PD, sì, che fanno molta resistenza hanno detto di no, per far entrare dei loro uomini come ministri di Monti. Perché Monti li vorrebbe e perché PD e PDL invece dicono no? Allora, oggi la situazione è questa, naturalmente potrebbe cambiare nelle prossime ore, domani, certo. Comunque Monti li vorrebbe in squadra perché naturalmente avere dei politici e dei rappresentanti dei partiti che lo dovranno sostenere dà garanzie di maggiore stabilità politica. Monti sì è un tecnico, però dovrà contare su una maggioranza che è politica, una maggioranza parlamentare, dunque avere dei ministri al governo garantisce un maggiore raccordo con il Parlamento e quindi maggiori garanzie su voti di maggioranza poi sulle riforme che dovrà fare Monti. Il perché resistono sia PD che PDL? Dunque, la motivazione è semplice, nel senso che Monti farà delle riforme che finora non sono state mai fatte né dal centro-sinistra né dal centro-destra, perché sono riforme estremamente divisive anche all'interno degli stessi partiti. Faccio quattro esempi: le liberalizzazioni, tante volte ci si è provato sia a destra che a sinistra e non ci si è mai riuscito. Parlo proprio di liberalizzazioni come per esempio dei servizi pubblici locali, dell'industria in rete, così come le pensioni. Mm-hmm. Ecco, le pensioni sono un altro argomento estremamente divisivo, soprattutto a sinistra, ma anche nel centrodestra. E l'altra, che è quella della riforma del mercato del lavoro, è una spina, insomma, l'abbiamo già visto, sì, ci si è provato tante volte. Sì. Dunque, il fatto di tenersi un po' le mani libere e non essere completamente identificati con delle riforme che possono essere impopolari è la ragione per cui vogliono i partiti vogliono tenersi più a distanza. Non ci dimentichiamo che comunque tra un anno e mezzo, nel 2013, comunque c'è una scadenza elettorale naturale, quindi sì, insomma no, ma il ragionamento è chiaro, Lina, ed è chiaro, è anche comprensibile la tentazione dei partiti di dire certo, se io poi mi assumo la responsabilità dell'eventuale patrimoniale, dell'eventuale innalzamento dell'età pensionabile, dell'eventuale liberalizzazione nel mondo del lavoro, insomma è chiaro che poi questo non porta voti, certo sì. Che se lo facessero tutti, la Lega si è già sfilata, sì. Il problema è che così non si va da nessuna parte, perché non può partire un governo in cui i partiti, diciamo, ti appoggiano, ma anche no, perché, sì, insomma, certo. Perché, insomma... No, Sebastiano, è vero, però è il motivo per cui in 30 anni non si sono mai fatte le riforme in Italia, cioè in questo momento ci sta provando Monti, naturalmente ci auguriamo che la cosa si possa sbloccare. Poi vorrei anche aggiungere un altro problema, ci sono dei dicasteri che sono particolarmente, diciamo, delicati, parlo per esempio della giustizia. Ieri il segretario del PDL Angelino Alfano è stato molto chiaro su questo punto, cioè ha detto: bene i tecnici, però non devono essere estremisti, devono avere buon senso, e mi riferisco in particolare alla giustizia. Ecco, la giustizia continua a essere un tema molto delicato nel PDL per Silvio Berlusconi. La giustizia, così come lo sviluppo economico, perché all'interno del Ministero dello Sviluppo Economico c'è la delega per le telecomunicazioni, che vuol dire... Esatto. Vuol dire tante cose. Cioè, possiamo chiamarla Maria o Giovanna, ma sempre Mediaset. Allora, no, d'accordissimo con te. E questo, hanno ragione anche gli ascoltatori che scrivono: beh, attenzione, un governo di salute pubblica non si riesce a fare in quattro ore. Forse lì c'è stato un po' di attesa eccessiva anche in Monti. Pensava di riuscire già oggi ad arrivare con una squadra oggi o domani. Qua tutto slitta almeno a mercoledì. Per cui mi sa che con Lina Palmerini ricevi molto i complimenti degli ascoltatori, evidentemente ti leggono oltre che ascoltarti. Con Lina Palmerini ci risentiremo nei prossimi giorni, sicuramente. Ripeto, fare il sottoministro oggi non ha nessun senso, finché non capiamo se questo snodo della presenza di politici o meno dentro il governo non si risolverà, quindi è inutile iniziare con chi farà il ministro dell'economia, chi farà il ministro della giustizia. Prego. Naturalmente ci sono dei nomi, però ecco. Ma li facciamo, anche, li facciamo nei prossimi giorni, ci risentiamo domani. No, ma ti risparmio, perché domani insomma, dobbiamo fare retromarcia. Se però questo è l'atteggiamento dei partiti, attenzione, perché sullo spread i movimenti si sono già visti, da 4,50 che era sceso questa mattina è tornato a 4,95. A prima o poi ripartirò e salirò, salirò, salirò, salirò, salirò, se di questo giardino. Salirò, salirò, fino a quando sarò solamente un ricordo. Allora, adesso arriviamo alla borsa dopo il GR. Non ho capito perché mi scrivono l'ascoltatore, so che la cosa non interessa Barisoni, ma nelle ultime settimane sta dilapidando la stima che si era guadagnato. Ma perché? E mi lasci dire che sentire Radio 24 favorevole alla patrimoniale è quanto mai divertente. Guardi che noi non siamo favorevoli alla patrimoniale. Bisogna trovare 24 miliardi di roba nei prossimi mesi. Manovra correttiva, facciamo un bel toto, più che toto ministri, toto misure. Scrivete voi dove andare a prendere questi soldi. Noi ci risentiamo alle 18.05 per commentare la borsa, meno 2% nel finale, male Unicredit meno 6.20 e Campari meno 7.60%, 349-238-6666 per i vostri sms. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per fare la borsa. Adesso il commento della giornata, Unicredit e poi Luigi Zingales. Vedo moltissimi messaggi alla domanda dove andiamo a trovarli 24 miliardi di euro. Molti di voi, alcuni sono a favore della patrimoniale e quant'altro, dicono: vabbè, però attenzione, prima dimagrisca lo Stato, poi può chiedere i soldi a noi. D'accordissimo. E suggeriscono la privatizzazione del patrimonio statale e delle partecipate. Allora attenzione, perché è tutto giusto, però sul patrimonio dello Stato c'è già un progetto, nella lettera inviata dal governo Berlusconi a Bruxelles c'era già sottolineata anche la parte che riguardava il collocare sul mercato parte del patrimonio immobiliare dello Stato. Non è una cosa che fai in 2-3 mesi, certo che è giusto iniziare, ci mancherebbe, così come bisognerà mettere freno a questa spesa corrente, cioè la spesa della pubblica amministrazione che non si riesce a frenare, e non c'è riuscito neanche l'ex governo Berlusconi. Sulla privatizzazione, o meglio la cessione ulteriore di Eni ed Enel, ci sono, e anche Finmeccanica, ci sono un paio di problemi. La prima è che vai sotto la soglia del 30% e diventano contendibili, ma soprattutto siamo sicuri che sia un'operazione vantaggiosa collocare Eni, una quota di Eni e Enel, Finmeccanica, in questo momento di borsa? No, perché questo è anche l'altro grosso problema, vai a collocarla a prezzi bassi e rinunci come Stato ai dividendi futuri, perché i dividendi si prendono sulla base della quota che hai in questi gruppi, per cui io su questo sarei un po' più cauto, fermo restando che si possono comunque privatizzare, ma non forse in questo momento. La borsa, dicevamo, meno 2% Milano, meno 1,30% Parigi, meno 1,20% Francoforte, meno 0,5% Londra, meno 0,5% anche l'America, euro a quota 1,36%. Al di là di una debolezza generale, ma non di tutti i titoli, Monte dei Paschi guadagna l'1,60%, Ansaldo STS guadagna l'1,30% e Tod's lo 0,90% come Tenaris, Finmeccanica mezzo punto percentuale. C'è poi, dicevo, una debolezza generale di tutto il listino, con però in particolar modo Campari meno 7,60%. Campari ha diffuso i conti del trimestre e questa è stata la reazione netta della borsa. Popolare di Milano meno 6%, tra l'altro oggi sono usciti i dati sulla produzione industriale, meno 2% in Europa e meno 4,8% a settembre. Questo ha penalizzato titoli più legati anche al ciclo, quindi Fiat, ma non solo. Tornando invece sui bancari, devo dire Fiat Industrial perde il 5%, che Intesa ha perso il 4%, Popolare Emilia Romagna ha perso il 2,90%, cos'altro? Sul Banco Popolare ha perso il 2%, c'è però l'andamento di Unicredit che spicca, meno 6,20%, la Popolare Milano meno 6%. Unicredit ha diffuso oggi non solo i conti ma l'intero piano, i conti sono negativi, perdita superiore a 10 miliardi, ma soprattutto ha annunciato l'aumento di capitale da 7,5 miliardi di euro nel primo trimestre del 2012, con tra l'altro l'annuncio a seguire che non vi sarà alcun dividendo nel 2011, la perdita complessiva del trimestre di 10,6 miliardi dopo le svalutazioni. Se non avesse fatto queste svalutazioni straordinarie e non ripetibili, la perdita sarebbe stata di soli 470 milioni. Alessandro Graziani, del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Potremmo dare il titolo dicendo che ha fatto pulizia in casa, ma ha trovato tanta polvere, mi sembra. Sì, ha trovato tanta polvere, soprattutto l'elemento nuovo appunto di oggi è proprio la pulizia straordinaria nei conti, 10 miliardi di svalutazioni relativi a marchi, attività all'estero, sostanzialmente le banche nell'Europa dell'Est acquistate negli ultimi anni e partecipazioni azionarie, tra cui quella di Mediobanca. Si tratta di un elemento nuovo, finora non atteso al mercato, perché il mercato finora, come abbiamo detto molte volte, guardava soprattutto ai titoli di Stato in portafoglio, alle banche italiane e a quanto dovevano svalutare. Quindi questo è stato un po' il colpo che oggi ha depresso le quotazioni di Unicredito. È anche vero, adesso è in corso l'incontro di Ghizzoni, l'amministratore delegato, con gli analisti, lui sta spiegando che hanno deciso di fare queste svalutazioni straordinarie proprio in vista dell'aumento di capitale che faranno nei primi mesi dell'anno. È quello di presentarsi al mercato dopo aver fatto le svalutazioni, in modo che chi investe ha eliminato quell'alone di incertezza che la banca si portava dietro da molti anni. E tra l'altro, nello svalutare le partecipazioni, insomma nel fare pulizia interna, è stata svalutata e non di poco anche la partecipazione in Mediobanca. Mediobanca perde il 2,55%, ma insomma il valore è stato ridotto della partecipazione di Unicredito in Mediobanca di 440 milioni. Unicredito è il primo azionista di Mediobanca, all'8,7% del capitale. Sentiamo su questo Ghizzoni nella conference call con gli analisti in inglese. Gli andiamo sopra a braccio. The value of our most important participation, strategic participation, the most important one is Mediobanca, that has been reduced, adjusted by 440 million euros. Quindi dice appunto Ghizzoni, numero uno di Unicredito, abbiamo ridotto di 440 milioni di euro la partecipazione Mediobanca, abbiamo presentato un bilancio solido che non creerà alcuna sorpresa per il futuro, avremo a questo punto con l'aumento di capitale un core tier pro forma del 9% e del 10% nel 2015, tutto in linea con gli obiettivi di Basilea 3. Alessandro, tu che sei un attento osservatore per i Sole 24 Ore del mondo bancario, questa operazione di Unicredit è una cosa limitata a Unicredit o potrebbe dare il via a un insieme di altre svalutazioni sulle partecipazioni? Per il momento, diciamo, Unicredit tra le grandi banche adesso è stata l'ultima a fare la trimestrale, Intesa l'ha già fatta, hanno svalutato già le quote in Telecom. Ma insomma Unicredit aveva Mediobanca e soprattutto le attività all'estero da svalutare, quindi la parte più grossa mi sembra che sia stata fatta. Per quanto riguarda Unicredit adesso l'appuntamento, quello decisivo, però appunto è l'aumento di capitale, 7 miliardi e mezzo è un importo rilevante, e i soci italiani, dalle fondazioni agli azionisti privati, coprono circa il 20%, tutto il resto andrà sul mercato e quello sarà la vera incognita del futuro di Unicredit. Eh sì. Allora, nel frattempo, invece, per quello che riguarda i migliori e peggiori della borsa, Meride oggi è il titolo che più ha guadagnato, più 17,40%, Bialetti più 6,50%, Ross più 6,36%, Antichi Pelletieri più 5,70%, RCS Media Group più 5,30%, Prelios meno 29,50%, Zucchi meno 19%, poco altro, poi appunto Unicredit perde il 6-18% sulle ordinarie. Tra l'altro oggi in parità anche alla fine Finmeccanica, ci sono ipotesi, come pubblicato oggi da Sole 24 Ore, di cessioni per alcune attività del gruppo. Finmeccanica alla fine guadagna lo 0,45%. Grazie ad Alessandro Graziani del Sole 24 Ore. Allora, c'è chi scrive, insomma, Valeriano da Brescia: caro Barisoni, per lei è molto facile non dare conto dei messaggi di critica, tanto noi ci ricorderemo le sue gravi prese di posizione degli ultimi giorni, questo peggiora solo la magra figura che ha fatto. Tutto bene, può scrivere quello che vuole, però una cosa, io spesso li leggo anche troppo i messaggi di critica. Ora, scrivere che non diamo conto delle critiche che ci arrivano mi sembra leggermente ingeneroso. Traffico e poi Luigi Zingales. Allora, mentre, come ci ha spiegato Lina Palmerini, il problema politico di Monti in questo momento è capire quanto forte sia il no del PD e del PDL alla presenza di ministri politici, di politici ministri, e Monti infatti li vorrebbe per blindare anche la sua maggioranza di governo, ma i partiti non li vogliono perché sanno benissimo che Monti dovrà fare delle cose durissime che non sono riuscite nel governo precedente e che sicuramente o spesso non ti portano voti. Lo spread su questo è tornato a salire e su Sole 24 Ore di oggi c'è un articolo a nome di Luigi Zingales, di ieri scusatemi, c'è un articolo a nome di Luigi Zingales dice: per Monti un mandato da curatore fallimentare. Leggo un passaggio: il mandato di Mario Monti non è quello di fare piani di sviluppo, ma ristrutturare l'impresa per trasferirla o liquidarla. Nel caso di un paese la seconda opzione non è fattibile, quindi rimane la prima. Non è l'incarico di un governo politico, ma è l'incarico di un curatore fallimentare, un incarico a tempo con l'unica funzione di risolvere i problemi che questo sistema politico non è mai stato in grado di risolvere da solo. Sono il signor Wolf, risolvo problemi. Professor Luigi Zingales, buonasera. Buonasera. Mario Monti Wolf, lei se lo ricorda, Pulp Fiction, immagino. Allora, un curatore fallimentare non è il massimo, diciamo, come viatico per il neo presidente del Consiglio incaricato. Ha visto anche gli sviluppi oggi, lo spread è tornato a salire dopo che si è capito che formare il governo sarà un po' più lungo delle attese. Professore. Sicuramente è un incarico estremamente difficile, e questo è il motivo per cui il Presidente della Repubblica si è rivolto a una persona di talento straordinario come Mario Monti. Penso che in questo momento c'erano solo due persone che potessero farlo, uno era Mario Draghi che è occupato a fare altre cose e l'altro è Mario Monti, quindi sicuramente è un incarico molto difficile. A cosa risponde lei, insomma, se ha un'idea su questo, alle polemiche che sono montate, vedo anche alcuni ascoltatori anche oggi, Mario Monti in realtà è la vittoria delle lobby finanziarie e bancarie della Trilaterale, del gruppo Bilderberg, di Goldman Sachs, insomma delle banche che hanno vinto su base mondiale, hanno imposto un personaggio non eletto dal popolo, e questo è indubbio, non eletto in una democrazia, cacciando il precedente governo. Innanzitutto ricordiamoci che la nostra non è la Repubblica presidenziale, ma è la Repubblica parlamentare, quindi Monti deve guadagnarsi la maggioranza in Parlamento, non deve essere eletto dal popolo, il nostro Presidente del Consiglio non è eletto dal popolo, quindi se lui non avesse la maggioranza in Parlamento sarebbe sicuramente una cosa antidemocratica, nel momento in cui ha la maggioranza in Parlamento sarebbe un governo democratico come tutti gli altri. Quindi secondo me non ci sono dubbi su questo punto. La realtà è che tutti i sistemi democratici, come anche tutte le imprese, hanno delle deficienze da cui fanno fatica a risolvere internamente. Per questo ho fatto l'analogia del curatore fallimentare, perché nelle aziende quando le cose non vanno e le normali procedimenti di selezione interna non funzionano per trovare il manager adatto, sono due cose: o una, l'impresa viene taken over da qualcun altro con un'acquisizione ostile, oppure l'impresa lentamente scivola verso il fallimento, a quel punto il tribunale nomina un curatore fallimentare. In sostanza l'Italia per fortuna non può essere taken over, perché non siamo più in un mondo in cui viene invasa da uno straniero, una volta questo funzionava per liberarsi dei governi incapaci, quindi l'altra strada era una strada lenta verso il fallimento. Quello che Napolitano ha fatto è cercato di prevenire, diciamo, un commissariamento esterno con un commissariamento interno che inevitabilmente deve avere la maggioranza del Parlamento, ma viene fatto da una persona competente, ma non c'è dubbio che lui debba avere la maggioranza in Parlamento, non c'è dubbio che non possa fare, secondo me, delle grosse riforme, proprio perché non è un governo politico. Quello che deve fare è il minimo necessario per rimettere il Paese in grado di operare in maniera tradizionale. Allora, vorrei arrivare al punto di cosa deve fare Monti, secondo lei, però una risposta anche sullo spread, perché oggi è iniziata la giornata bene con uno spread in calo a 450 punti, poi però in Spagna, in Francia, in Grecia e anche in Italia è tornato a salire, le tensioni sono su tutti i mercati, c'è questa dichiarazione del rappresentante delle banche, a mio avviso abbastanza delirante, però insomma Christian Clausen, presidente della European Banking Federation, l'istituto che rappresenta le maggiori banche europee, che dice: state fuori, state alla larga dalle obbligazioni italiane e in generale da tutti quegli asset contaminati dalla crisi europea dei debiti sovrani, quindi continuate a smobilizzare le obbligazioni italiane. Però insomma è indubbio che lo spread sia di nuovo a 495, lei come se lo spiega, con le incertezze complessive sull'Europa o un'incertezza specifica sull'Italia, visto che è apparso chiaro che oggi non arriverà la lista dei ministri? Ma guardi, il problema, come diceva Einaudi, è che i risparmiatori sono come gli uccelli, una volta che uno li fa scappare da un albero è difficile farli tornare indietro, quindi purtroppo i problemi che il governo italiano ha messo in luce hanno spaventato la gente, gli investitori internazionali, e prima di riconvincere questi investitori che tutto è tranquillo ci vorrà un po' di tempo e tutto deve filare liscio, quindi chiaramente già queste ambiguità e queste trattative per la formazione del governo spaventano, però secondo me dobbiamo prepararci moralmente e spiritualmente che non è che Monti, per quanto bravo, possa avere la bacchetta magica, quindi gli spread scenderanno lentamente solo nel momento e nella misura in cui il governo riesce a far approvare delle misure stabili e c'è una prospettiva di una soluzione a lungo periodo. Allora, sulle lobbies mi risponde, però c'è sull'idea che Emanuele Monti risponda alla finanza. Io ricordo sempre anche il lavoro svolto in 10 anni nella Commissione Europea, si è inimicato grandi gruppi mondiali. Comunque, che possa rispondere a una logica Goldman Sachs, logica diciamo della finanza, che andrà a svendere questo paese. Ma guardi, le alternative secondo me non sono molte. O uno cerca di vendere alcune cose di questo paese per ridurre il debito, o impone tasse, lacrime e sangue a questo paese. Secondo me la seconda ipotesi è disastrosa. In un momento difficile per l'economia, una tassazione massiccia vorrebbe dire, secondo me, ammazzare il malato. Quindi rimane solo la prima ipotesi, che è vendere. Vendere non significa svendere, e vendere secondo me ha due vantaggi: uno, quello di raccogliere soldi, e due, di aiutare a cambiare il clima economico e politico. Cioè, uno dei mali dell'Italia è il clientelismo, e il clientelismo vive alle spalle delle aziende pubbliche, quindi una massiccia privatizzazione in questo senso taglierebbe proprio alla radice il clientelismo. E siamo già al cosa dovrebbe fare Mario Monti, che non ha sicuramente bisogno di consigli, ha bisogno di una maggioranza solida in questo momento. Però lei diceva appunto: liberalizzare le professioni vuol dire il contratto unico, liberare l'economia dalla corruzione della politica, privatizzare le municipalizzate, così rispondiamo anche ad alcuni ascoltatori, le grandi imprese statali, espropriare le fondazioni bancarie, e poi praticamente con queste operazioni il rapporto debito-PIL tornerebbe al 100%, non al 120% come attualmente. Mi dica solo una cosa, in conclusione, Zingales, ce la farà o no Monti a fare governo? Ma guardi, purtroppo è 50-50, cioè non sono così convinto. Cioè, se il paese fosse, o soprattutto chi è in questo momento al Parlamento, fosse razionale, sicuramente Monti ce la farebbe. Purtroppo non mi sento di essere così sicuro che la razionalità prevalga. Allora, grazie a Luigi Zingales. Noi la racconteremo anche in questi giorni, raccontando anche tutte le critiche che ci arrivano al 349-238-6666. Lo spazio è per tutti, anche i complimenti, per carità. Intanto però per oggi la trasmissione è finita qui. Da Sebastiano Barigioni l'auguro di una buona serata. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Vi ricordo che domani sul Sole 24 Ore vi sarà la svolta italiana e la crisi degli spread, e quindi tutta l'analisi sui titoli di Stato, la cassa, il fisco, il risparmio, istruzioni per l'uso. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.